più o meno a cavallo della Grande Guerra. Nel titolo di questa conferenza ho utilizzato una frase che è abbastanza famosa, che è una frase di un giornalista completamente devoto al regime fascista come Mario Appellius, che in ogni oltre che giornalista si occupava anche di trasmissioni radiofoniche, quindi leggeva i bollettini di guerra negli anni 40 e parecchie volte, anche quando le battaglie non erano proprio a favore dell'asse, intanto si inventava proprio di sana pianta, si inventò alcuni episodi, e quindi un po' particolare da un giornalista di sana pianta completamente si inventasse addirittura il ministero della cosa popolare. Infatti alla fine decise di eliminarlo, cioè di San Mussolini lo devi togliere, perché comunque facciamo figuracce, cioè la gente sa, i soldati tornano a casa. Però la sua frase, Dio strano le mica gli inglesi, la metteva in pratica quasi ad ogni trasmissione radiofonica, perché in quel periodo lì le nostre, specialmente le nostre forze navali, quindi siamo tra il 40 e il 42, erano in aperto contrasto con la diceva l'Inghilterra e gli inglesi, poi dipendeva dal contesto, tutte frasi che venivano prese dai discorsi di Mussolini. E io sono partito da qui perché, non che Appellius avesse completamente, cioè lui la vede da un punto di vista squisitamente politico e anti-inglese, ovviamente, perché in quel momento l'Italia era in guerra con l'Inghilterra, in realtà era una persona che, studiando nella storia, abbastanza cosmopolita, perché aveva lavorato come mozzo nella marina mercantile italiana, aveva viaggiato in Cina, in tutto il Medio Oriente, una persona che è partita da origini abbastanza umili, il padre non era chissà che, ed è diventò senza avere chissà quali bilanci, cioè lui si costruì la sua carriera praticamente da solo e riuscì poi ad avere appunto una notevole importanza di comunicatore, quindi era un gran comunicatore. Alla fine dopo la guerra fu condannato semplicemente per apologia di fascismo, dico semplicemente perché non si macchiò mai di reati che andassero oltre al reato d'opinione dopo la guerra. Tempo libero. Esatto, quindi venne poi l'amnistia degli atti, li salvò in pratica anche, non fece neanche prigione né niente. E fu però un personaggio particolare, perché un avventuriero e mezzo archeologo, perché si interessò moltissimo, e da una parte può ricordare su certe avventure Lawrence d'Arabia, solamente su certe, perché ovviamente non era un agente segreto, Lawrence d'Arabia era un agente segreto, quindi lavorava e prendeva soldi dai servizi inglesi. In realtà Apelius era più un avventuriero, quindi scrisse un libro che ho letto e non è neanche il libro sull'India, anche sull'India, certo. Sì. Certo, la spinge, a me è piaciuta la spinge nera. Mi ricordo ancora la festa del Barajabia in Deva. Mi è rimasto impresso. Sì, perché poi le descrizioni, devo dire la verità, purtroppo, dico purtroppo perché non dico che questo scrittore debba essere conosciuto per forza, insomma è giornalista ma in realtà più scrittore, però effettivamente aveva un modo particolare di raccontare, neanche abbastanza moderno, cioè una persona che pur essendo informata in un regime bla bla bla, però aveva un'idea, un concetto moderno. Ad esempio, non ho mai trovato del razzismo se non gli stereotipi che avevano le persone a quell'epoca, cioè è chiaro che considerassero in maniera diversa chi nasceva in Africa piuttosto che chi nascesse in Italia o in Francia, però era una sorta di stereotipo appunto che veniva buttato nella società e se lo tenevano tutti così. E ci sono però, io sono partito appunto da questa frase perché il fascismo italiano e l'Italia in primis, praticamente dal 14 fino al 1940, passiamo 43 perché dopo gli ultimi due anni agganciati al carrozzone germanico non fanno testa, però l'Italia in questi 20 anni riuscì a instaurare un rapporto particolare e strano con gli occhi di oggi, dico strano anche se al tempo non era assolutamente strano, in chiave italo, di amicizia italo-araba, cioè se da un punto di vista strategico nella prima guerra mondiale noi siamo finiti dalla parte di inglesi e francesi, perché ci siamo finiti da un punto di vista strategico, cioè eravamo dall'altra parte, dovevamo firmare il rinnovo della triplice alleanza, lo firmarono come al solito all'ultimo momento, eccetera eccetera, comunque avevamo preparato le divisioni in un certo modo, gli austriaci non si fidavano, poi alla fine loro prima del famoso maggio del 15 ci dissero: guardate, prendete tutto quello che volete, va bene anche l'Istria, l'importante è che non facciate guerra perché c'è anche la Russia, bla bla bla. Alla fine insomma l'Italia optò per andare con le potenze di Francia e Gran Bretagna, poi Stati Uniti, e in quel caso lì l'Italia fece anche comodo perché aveva già messo basi sia nel Dodecaneso, quindi a Rodi, e sia in Libia, che era stata conquistata nel 1911-12, una guerra che anche quella spesso, adesso forse in questi mesi è stata tirata fuori, una guerra che venne combattuta semplicemente per trovare il famoso posto al sole, che poi sarà anche questa una frase di Mussolini, però in realtà furono i governi liberali ad avere l'intuito abbastanza ottocentesco di andare a trovare dei pezzi di terra in giro per il mondo e poi dichiarare di avere un impero coloniale, perché si andava per imitazione dell'Inghilterra. I nostri governanti però a fine prima guerra mondiale fecero una serie di errori clamorosi, cioè se da un lato noi avevamo vinto la guerra, D'Annunzio dirà la famosa vittoria mutilata, dall'altro però a livello territoriale i compensi che ci avevano promesso furono dimezzati. Perché? Perché si inserì il presidente Wilson con i suoi famosi punti autodeterminazione dei popoli, sempre ragioniamo di casa degli altri, perché ovviamente gli americani anche in quel caso fecero dei bellissimi discorsi, però sempre basandosi su casa degli altri, nel senso che non riuscirono, alla fine valeva per alcune zone, per altre no, eccetera eccetera, quindi fu anche quello un discorso abbastanza raffazzonato, però che creò le basi purtroppo per il disastro che avvenne poi nel 1939, anzi che partì nel 30, a dirla tutta il disastro partì nel 34 più che nel 39, nel 39 il disastro non era già compiuto. Quindi misero le basi purtroppo per quello che poi sia in Italia sia in Germania portò le due potenze del tempo anche ad allearsi, proprio una miopia totale. I nostri governanti, come al solito, che davanti alla popolazione facevano i grandi uomini, per esempio Orlando quando abbandonò anche la conferenza di pace di Parigi, venne applaudito, eccetera, eccetera, dall'altra chiedevano in queste trattative solamente pezzi di terra, non chiedevano, cioè, ad esempio i francesi andarono a queste trattative con degli esponenti della loro società, però economica, non militare, economica, non mandarono generali, cartografi, eccetera, mandarono persone che avevano interesse economico nel far passare sotto la Francia alcuni pezzettini di terra, più che i pezzi di terra in sé, le concessioni dei pozzi di petrolio in Iraq e in tutto il Medio Oriente. Noi, come al solito, sarà un problema diplomatico a questo punto, noi avevamo intuito questa cosa perché da un punto di vista strategico, con l'impero ottomano in completa decadenza, eravamo riusciti a porci su un piano comunque di dialettica molto buono, nel senso che eravamo sullo stesso livello di inglesi e francesi. E invece ci mettemmo a chiedere tutta la Dalmazia, pezzi della Grecia, anche se la Grecia non era una nazione che era uscita sconfitta, quindi non potevano togliere i pezzi, perché insomma non funzionava il discorso. Quindi volevamo un pezzo di Anatolia, una delle regioni più povere del resto della Turchia, però faceva scena sulla carta geografica, avremmo avuto un sacco di pezzettini con la bandierina italiana e quindi questa cosa faceva scena. Da lì partì il secondo step, secondo me, di disastro, cioè la nostra diplomazia si batté per questi pezzi di terra, fece un grande regalo ad D'Annunzio e direttamente anche a Mussolini, che a quel tempo valeva come due di picche, c'era D'Annunzio che era il vero, fece, no, la vera marcia per gli italiani del tempo, era quella di Fiume, perché lì ci fu si disse che Fiume non sia italiano, dovesse tornare sotto il Regno d'Italia, quindi c'era D'Annunzio, scrisse la carta del Carnaro e non c'era nulla di fascista ancora, qualcuno poi dopo disse protofascismo, però dopo, in quel periodo lì non non c'era ancora questa idea, e da quel progetto che dall'inizio poi venne fuori tutto il discorso del regime fascista in Italia. E partì anche da quel, cioè il nostro governo fu un po' mio, perché invece di accaparrarsi le risorse energetiche primarie, che americani, inglesi e francesi avevano già capito che il mondo andava verso quello, ci occupammo di pezzi di Tripolitania, avere il confine fino all'Egitto, eccetera, eccetera. In tutto questo, oltre a noi che uscimmo vittoriosi, però sconfitti a livello diplomatico in realtà, perché poi, a parte il Dodecaneso, a parte il Fiume, a parte poco altro, non siamo riusciti ad avere quello che effettivamente i trattati internazionali anteguerra ci hanno promesso. Un'altra parte sconfitta, però a differenza nostra, pure presa in giro in maniera clamorosa, fu la componente araba, perché appunto l'Ores Arabia non era da farsi una vacanza, si era proprio occupato di andare, a quel tempo era un po' diverso da adesso il discorso del Medio Oriente, nel senso che le tribù arabe erano tutte divise, più o meno tutte avevano il loro capo, quindi era un ginepraio, e mettere d'accordo di queste fazioni era difficilissimo. Allora agli inglesi venne un'idea, maestri nell'unire e nel distruggere, e in pratica si inventarono una sorta di nazionalismo arabo, se lo inventarono gli inglesi, non partì dagli arabi in quel caso lì. In pratica cosa doveva succedere? Una volta finita la prima guerra mondiale, agli arabi veniva dato un certo territorio da amministrare, basandosi addirittura su quello ante, cioè in pratica si fece lo stesso ragionamento che faceva Maometto, cioè state vi create uno stato arabo, ok? Lì non si parlava di Islam, proprio arabo. Ovviamente i vari re, califfi, califfetti e più o meno tutte le tribù della zona accettarono di buon grado, perché dopo svariati secoli di decadenza, perché ricordiamo che l'impero ottomano non era visto di buon occhio dalle popolazioni arabe, anzi nella stessa Libia è vero che poi si unirono ottomani e arabi perché erano due cose abbastanza distinte, e si unirono contro gli italiani, però all'inizio gli italiani in Libia, insomma tra ottomani e italiani erano un pochino indecisi le popolazioni autoctone, perché proprio l'impero ottomano non è che si fosse comportato benissimo con tutte quelle popolazioni dell'area, era riuscito solamente a mantenere una discreta unità, però un po' feroci erano anche gli ottomani, non solo gli europei. Perché? Perché si ripassavano al colonialismo europeo, e quindi chiaramente la nazione del 1912, secondo i dettami del tempo, doveva essere feroce con le colonie, quel tipo di colonialismo, però già gli inglesi e i francesi avevano capito che fosse sbagliato, perché una rivolta al giorno è difficile da sedare, quindi puntarono poi su altre armi. Nel nostro caso, quindi, l'Ores Arabia cosa fece? Lui, a dire la verità, fu ingannato anche lui dal governo britannico, perché i britannici, cioè il suo governo, gli disse: no, guarda, che noi, appena finita la guerra, daremo un pezzo di terra a queste popolazioni, quindi tu puoi lavorare tranquillamente, non ci saranno inganni. E invece, poi, dopo la prima guerra mondiale, ci fu il grandissimo inganno, cioè regioni come la Palestina, come l'Iraq, come l'Egitto, e cambiarono il nome, non si chiamavano più colonie, ma diventarono mandati. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli egiziani non erano padroni a casa loro, dovevano chiedere tutto, era di fatto una colonia inglese, con tutti i problemi che necessitava questa cosa qui, cioè quindi risorse primarie in mano agli altri, cioè quello che poi successe in India con Gandhi, che gli rivendevano il cotone per farsi le magliette, eccetera, eccetera. Quindi in questo clima gli arabi vennero praticamente presi in giro, e in un primo momento da un punto di vista occidentale questa cosa passò quasi in secondo piano, perché chiaramente non avendo un rappresentante unitario non si riuscì nemmeno a non si capì proprio il problema. Però a metà degli anni 20 già qualcuno in Italia, Mussolini, pensò che fosse bene invece che l'Italia, nonostante avesse ancora un rapporto di totale amicizia con l'Inghilterra, si avvicinasse al mondo arabo. È chiaro, il 40% di questa azione fu in chiave anti-inglese, cioè l'Italia doveva acquisire prestigio internazionale anche in queste popolazioni, che erano comunque considerate superiori alle popolazioni africane e asiatiche, attenzione, anche le potenze occidentali consideravano il mondo arabo comunque non pari livello, perché chiaramente non c'era uno Stato, a quel tempo si trattava molto in termini di Stato, non c'era uno Stato arabo, quindi, però le popolazioni l'arabo come cultura la considerava superiore alle culture asiatiche, quindi addirittura dei giapponesi, che erano comunque, avevano una marina che aveva un tonnellaggio maggiore della nostra, però erano considerati inferiori culturalmente alle popolazioni arabe, cioè per un inglese era meglio un arabo, per esempio. E quindi questo discorso qui è molto importante, perché inizierà a creare il seme di quello che poi sarà il nazionalismo arabo vero e proprio, cioè quello che poi sarà dopo il 46, però, anche se io ho trovato una cosa anche importante, lo stesso regime fascista, con rappresentanti importanti quali Italo Balbo, sapete, no? Il traslatore, il famoso Balbo, il governatore della Libia, eccetera, eccetera. Balbo era diventato antipaticissimo negli ambienti di regime dopo il 38, cioè dopo le leggi razziali, che sono state lo schifo praticamente finale tra regime nazista e fascista. Si sono accordati, Hitler ha detto a Mussolini: guarda, è meglio che ci accordiamo su alcune cose. Quando lo stesso Mussolini nel 34 aveva proprio fatto un discorso che poi diventò anche abbastanza famoso, dove diceva che il razzismo era una cosa per sciocchi, e faceva fece quella famosa frase: mentre io parlo, al nord delle Alpi c'è qualcuno che quando c'era Virgilio, eccetera eccetera, non aveva neanche la scrittura. Quindi a quel tempo ancora Germania e Italia c'è un contrasto. In realtà quel discorso fu così violento perché la Germania aveva già pensato di annettersi l'Austria. Siccome Mussolini era molto amico di Dollfuss, che era il cancelliere austriaco, non voleva ovviamente confinare con la Germania, era una gran fregatura. Nel contempo il partito nazista aveva già messo radici in Alto Adige, quindi c'erano dei problemi anche qui. Gli stessi austriaci informarono Mussolini di queste trame, perché a quel tempo gli austriaci avrebbero preferito rimanere amici dell'Italia, non della Germania. Sembra strano, ma è così. E quindi nel 1934 Mussolini addirittura sposta delle divisioni al Brennero per far capire alla Germania che è meglio lasciar perdere, e Hitler in quel caso ci casca, perché la Germania ancora non è la superpotenza del 39, non ha ancora completato gli armamenti, non ha una marina ancora in grado di disturbare nessuno, è bella contenuta, quindi è molto importante. Balbo dal 38 in poi diverrà la spina nel fianco di Mussolini, intanto per popolarità, cioè in Italia tanti lo vorrebbero come primo ministro al posto di Mussolini, perché intanto una visione più repubblicana del fascismo e meno verso la monarchia, e soprattutto con mentalità più moderna. Ricordiamo che Balbo a quel tempo è in America conosciutissimo dopo aver fatto la traslata con i due volanti, addirittura ancora oggi se andate a Chicago trovate la Balbo Avenue, non l'hanno tirata via, l'hanno lasciata, e c'è una colonna romana che è stata donata poi che veniva da Ostia, eccetera eccetera, quindi è un personaggio proprio hollywoodiano. E lui si batteva perché la popolazione araba della Libia avesse la cittadinanza italiana, per esempio, perché appunto si sentiva, fu mandato in Libia come governatore perché per eliminarlo dalla scena italiana. Chiaramente a quel tempo gli italiani d'Italia non si occupavano di cose libiche, quindi poco o niente, insomma, i cinegiornali parlavano di Mussolini, delle opere del regime, delle opere in Libia, però non si occupavano di quello che faceva Balbo in Libia, sì, della Balbia, però c'era sempre Mussolini a cavallo, Mussolini con la spugna, insomma, era tutto iniziato su Mussolini. Quindi Balbo, che poi adesso fu mitragliato sul suo apparecchio dopo pochi giorni di guerra a Tobruk, e fu mitragliato da un nostro, dalla nostra nave, la San Giorgio, che era lì, e scambiarono l'aereo per un aereo inglese, così si disse. Poi c'è qualcuno che disse che invece fu fatta apposta questa cosa, infatti Mussolini fu molto telegrafico e disse che gli dispiaceva, però non fece grandi discorsi. Sotto sotto forse era pure contento, perché appunto Balbo, in fatto di popolarità, curiosità, nella lingua americana la parola Balbo vuol dire, è stata poi negli anni è saltato fuori che Balbo fosse diventato un soprannome per persona che aveva il pizzetto, perché Balbo aveva questo pizzetto, pizzo di ferro era stato soprannominato, era questo pizzetto che per il tempo era un look abbastanza alternativo, addirittura entrava così tanto nella... Gli americani avevano una certa forma di passione per il regime fascista, non era visto, prima anche Roosevelt si batté tantissimo per andare, per convincere Mussolini, scrisse delle lettere, e fece tutto per non farlo entrare in guerra. Ma io vi volevo far vedere questo filmato abbastanza raro, quindi siamo nel 38, siamo in Palestina, che cosa diceva il regime fascista di quello che succedeva in Palestina? Non sembra tanto diverso da alcune cose che sentiamo oggi. Nella terra santa senza pace, teatro di lotte, soprusi e rancori, tutti i luoghi che il Cristo ha santificato con la sua presenza e col suo sacrificio, il giardino di Getsemani che vide la grossa dell'uomo Dio, come il muro crescendo per le valli Geremia, dai discendenti di Scariota appaiono deserti, mentre nella città fanno proprio sparuti gruppi di urani e rapini che si sentono spalleggiati nella lotta contro l'arco, antico signore di queste terre, che si cercano con ogni mezzo di spodestare per creare forse il nuovo regno di Israele, che rinnovi i fatti del precedente. La guerriglia viene anche qui in un momento di spodestare, gli armi servono i soldi per la lotta con le finanze, che rinnovi i fatti di altri veterani che intentano restaurare l'ordine e si battono contro i rebelli di organizzare loro. Scusate, ma non sono salvi due. Sì, ne sono partiti due, scusate, ma. Allora. Abbasso un attimo il volume anche. Va bene così? La questo filmato, che è particolare, non è in chiave filo-occidentale, se avete ben notato, è in chiave filo-arabo. Cioè, viene, è vero che nel 38 non siamo ancora, non abbiamo nulla, anzi abbiamo fatto un bel patto per quanto riguarda il Mediterraneo, e però questo filmato che in Inghilterra venne fatto vedere nelle altre sfere, addirittura si disse che pure la regina lo vide con una certa preoccupazione, perché gli italiani in quel periodo là erano considerati proprio stretti amici degli arabi. Infatti c'era un detto inglese che diceva, cioè venne proprio ci fu proprio una psicosi dei comandi anche proprio militari inglesi. Si diceva, speriamo di non avere un italiano in un diletto, proprio per questo motivo, perché questo legame molto stretto, e adesso poi vi farò vedere un'altra immagine di Mussolini molto significativa e che fece il giro del mondo, questa è un'immagine famosa, perché quella che Mussolini ha in mano, dopo tutta una serie di fotografie fatte apposta, non so quante foto li fecero quel giorno perché c'era vento eccetera, e quella famosa spada del Ben Islam che gli venne consegnata a Tobruk, ironia della sorte, il 17 di marzo, quindi nel 37, quindi domani casca l'anniversario. E siamo dopo la conquista dell'Etiopia, e ricordiamoci che, a parte il discorso fatto agli italiani dal balcone, e quindi l'Italia al suo impero dove accorsero fascisti, antifascisti, perché poi alcune cose sono state messe nel dimenticatoio, però ricordiamoci che alla guerra d'Etiopia, quando le sanzioni ci avevano sanzionato un po' per timbre, in realtà, perché poi alla fine noi vendevamo armi alla Francia tranquillamente, eccetera, eccetera, eccetera. In quel periodo lì Mussolini aveva detto: abbiamo fatto guerra all'Etiopia per proteggere i musulmani che vivono lì, non i cristiani copti, i musulmani. Quindi proprio lui aveva il fascismo, che si diceva fosse un movimento trasversale, cioè veniva esportato come idea trasversale di rivoluzione, quindi una sorta di internazionale. Mussolini era socialista di origine, infatti qui si vede che c'è ancora qualcosa del socialismo, e trasportarono la rivoluzione fascista. Infatti disse in più discorsi: noi non abbiamo intenzione di conquistare nessuna parte se non l'Etiopia, perché quella ci spettava, ma tutto il resto noi siamo protettori dei musulmani. Cioè non significava che gli italiani erano protettori dei musulmani, anche di quei musulmani che erano dentro nei confini britannici. Non era da poco. Pensate che nello stesso momento, quando mi facevano questi discorsi, le nostre navi stavano portando i nostri militari in Etiopia. Quindi, se gli inglesi avessero voluto chiudere il canale di Suez, noi avremmo finito lì. Ci chiudevano i rifornimenti, come invece nella seconda guerra mondiale. Sì, si potevano fare ponti aerei, si poteva fare tanto, però sarebbe stato complicatissimo conquistare l'Etiopia per una serie di motivi. Quindi siamo in un periodo. Infatti in Etiopia il Negus non era mica musulmano, e addirittura si era macchiato di delitti inenarrabili, perché poi c'è stata anche questa letteratura in Italia, cioè qualsiasi nemico di Mussolini era una brava persona. Ecco, il Negus non era, Mussolini non era una brava persona, però neanche il Negus era una brava persona, era abbastanza feroce, un dittatorello diremo noi, petto gonfio, però molto, ma molto cattivello. Poi vabbè, gli italiani lì, quando fecero la guerra, anche si macchiavano di delitti vari, perché la guerra doveva essere finita velocemente, quindi purtroppo, esatto, gas, lì proprio perché furono mandati quei comandanti, come per esempio Badoglio, Graziani, e gli italiani in quel periodo, era come Bartali Coppi, Graziani e Badoglio, era lo stesso discorso. E erano due arrivisti, due persone opportuniste. Badoglio aveva sul groppone anche Caporetto, eppure era ancora lì. Graziani era convinto di essere uno stratega militare, in realtà era solamente feroce, stava nelle retrovie, non si faceva mai vedere dei suoi militari. Ripa, tra virgolette, fece in Libia dei danni incredibili, che poi Balbo cercò di cercò di andare incontro alla popolazione, perché la popolazione a un certo punto odiava completamente gli italiani, perché appunto Graziani fu ferocissimo con i libici, proprio una cosa disumana, ma perché proprio di carattere lui imponeva, addirittura con i suoi militari, se non erano abbastanza feroci, li mandava invece che mandare nelle retrovie quelli che non si vogliono combattere, li metteva in prima fila e diceva: vabbè, mando prima voi così si ammazzano voi, ammazzano dei minetti. Cioè eravamo proprio a quei livelli, una mentalità ottocentesca applicata a una guerra coloniale. Infatti quando scoppiò la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, Balbo morì e venne mandato Graziani, perché convinti tutti che fosse un genio di strategia militare. In realtà invece gli inglesi fecero un buon gioco, perché noi eravamo quasi in Egitto, nel giro di un anno perdemmo pure Tobruk, poi arrivò Rommel e tornammo verso in Egitto, poi riperdemmo tutto, baracche e burattini, e vabbè, lì poi ci fu una sconfitta epocale per il nostro esercito, che come al solito aveva dei reparti discreti, come mezzi non tanto, però gli uomini si battevano sempre bene, i fantidi, chiamiamoli così, e aveva invece nei capi dei personaggi proprio indubbi, nel senso che proprio furono due carrieristi incredibili, che non si dichiararono mai fascisti, però, perché Badoglio poi diventò addirittura capo del governo dopo Mussolini, perché ufficialmente lui non fu mai fascista. In realtà prese di tutto dal fascismo, e fu forse peggio di qualche gerarca. Quindi ecco, e qui a tal proposito c'è un'altra foto per farvi capire il personaggio più che altro. Questo è Italo Balbo. Quando arrivò in America, il capo dei Sioux gli mise in testa questa roba qui e lo chiamò Aquila Volante. Ok? Quindi per farvi capire il personaggio, cioè un personaggio che, e se notate, è vestito con giacca e cravatta, non ha nessun tipo di ornamento fascista, perché comunque lui è fascista in Italia. Quando va all'estero o è vestito con la Regia Aeronautica, perché è un aviatore, oppure si veste in borghese. Non va all'estero con cappelli, eccetera, eccetera. Lui infatti è più moderno, si rende conto di cosa sono gli Stati Uniti e dirà a Mussolini: tu sei completamente pazzo a dichiarare guerra agli Stati Uniti, o comunque avere in mente di andare contro gli Stati Uniti, perché io ho visto che cosa sono gli Stati Uniti, cosa sono le città statunitensi. Lui venne accolto a New York nel famoso viale come solamente Armando Diaz, come stranieri, furono pochissimi quelli accolti con i coriandoli. C'è quel film famoso degli anni 80 dei Ghostbusters, ecco, una roba del genere, e fu uno dei pochissimi, e poi finì sulla copertina del Times, eccetera, eccetera, e si rese conto che cosa fosse gli Stati Uniti, cioè una potenza infinita a livello industriale. Noi avevamo delle carenze proprio a livello industriale, cioè andare in guerra contro, potevamo reggere per qualche anno, infatti abbiamo retto medio bene i primi due anni, e poi è cascato un falco, perché proprio le nostre navi non avevano nafta, eccetera, eccetera. Però purtroppo, io dico purtroppo perché fu tra virgolette, adesso non bisogna neanche dire che il regime fascista fece tutto in nome della libertà araba, questo gioco però delle parti con gli arabi ci diede un credito molto superiore, ma veramente superiore a quello che potevamo dare in termini militari e strategici verso gli inglesi. Infatti, e qui metto questo altro filmato che è secondo me fondamentale, poi vi spiego perché, il 16 aprile del 1938, se parte, sì. Il ministro degli Stati Esteri, Sua Eccellenza Galeazzo Ciano, e l'ambasciatore Lord Perth hanno firmato a Palazzo Chigi il testo degli accordi fra l'Italia e l'Inghilterra. Un'antica amicizia tradizionale tra due popoli è stata realmente rinnovata tra due popoli. A un accordo di buon vicinato relativo all'Africa orientale italiana ha posto la sua firma anche il rappresentante del libero Stato d'Egitto. Questo è anche significativo perché questo accordo, che sarà un accordo strategico militare, in pratica manteneva lo status quo tra la marina italiana e la marina britannica nel Mediterraneo, cioè noi potevamo fare quello che volevamo, loro potevano fare quello che volevano. Non è facile ottenere un accordo del genere con gli inglesi, che gli inglesi a quel tempo avevano mezzo mondo, avevano ancora l'impero, e soprattutto il Mediterraneo era abbastanza importante perché dava comunque il là al Medio Oriente. In tutto questo, questo accordo fummo noi l'unica potenza che riuscì a, negli anni tra virgolette moderni, quindi quando l'Inghilterra era proprio una grande potenza, negli anni 30 l'Inghilterra era nell'immaginario collettivo superiore agli Stati Uniti d'America, cioè era ancora una grandissima potenza, noi riuscimmo a strappare questo accordo che alla fine non è che ci fece fare grandi passi a livello militare, però intanto eravamo considerati non proprio pari grado, ma comunque riuscimmo a avere credito. Il tutto perché pensate che nel 1930 a Roma fu inaugurata la Fiera del Levante, cioè una fiera dedicata al mondo arabo a Roma, Roma fascista. Poi nel 1933-1934, sempre a Roma, convegni di giovani arabi che venivano finanziati dal Partito Nazionale Fascista, quindi li andava a prendere addirittura da casa loro e li portava a Roma. Quindi ovviamente parliamo di intellettuali arabi, persone di un certo livello, e addirittura vennero pubblicati dei giornali in Italia, si potevano trovare giornali pubblicati in arabo, in italiano o solo arabo, ad esempio l'Avvenire Italo-Arabo, che fu un giornale pseudo-socialista, cioè ricordava un giornale socialista, e venne poi stampato e pubblicato anche in tutto il Medio Oriente, qui con delle idee di un certo tipo, quindi idee di libertà, idee di fratellanza tra popolazioni, eccetera eccetera. Addirittura a Bari, Radio Bari faceva delle trasmissioni radiofoniche in arabo, quindi la nostra parte orientale dell'Italia venne proprio dedicata. Quindi alla luce di tutte queste cose, di tutte queste iniziative, furono pesanti, ricordiamo che roba del genere per esempio in Inghilterra non si trovava. In tutto questo, a Palazzo Venezia, dal 30 al 34, ci fu anche un certo Gandhi che mise piede in Italia. Voi sapete che a quel tempo Gandhi stava facendo una rivoluzione pacifica, però sempre una rivoluzione, e non parlò male di Mussolini, disse: è un grande uomo, ha fatto molte cose per il suo popolo, e mi ha trattato bene, e gli raccontò quel famoso episodio del Sudafrica dove Gandhi venne preso e scaraventato giù da un autobus perché era di colore, e in Sudafrica c'erano boeri, quindi insomma sempre gente olandesi. Ecco, l'Italia in quel caso lì ebbe un credito con i paesi arabi, cioè andò in credito con i paesi arabi, e infatti la nostra, spiace dirlo però è la realtà, la nostra politica filo-araba degli anni 60, 70, 80, quando i nostri militari erano gli unici che in Libano a cui non sparavano, quando i nostri militari venivano richiesti, e anche tuttora anche adesso l'Egitto preferirebbe l'Italia piuttosto che l'Inghilterra, eccetera eccetera, è anche grazie a questa politica di avvicinamento che ci fu tra mondo italiano e mondo arabo, per esempio negli anni 20 e 30, che fu proprio una politica tra virgolette più ingenua rispetto a quella inglese, perché è vero che il fascismo da questo avrebbe solamente tratto, cioè avrebbe voluto trarre, gli avrebbe dato la cittadinanza eccetera eccetera, però voleva trarre prestigio internazionale, però dall'altra non ci furono illusioni, cioè non ci furono promesse di imperi, nazioni, come invece fecero gli inglesi con l'Ovest Arabia. Che l'Ovest Arabia sapeva delle cose a livello strategico veramente elevate, non per nulla fece un incidente in moto negli anni 30, venne ucciso, si dice probabilmente venne ucciso perché appunto conosceva troppe cose, i tasselli erano ormai messi in un certo modo, e alla fine venne ucciso, molto probabilmente dagli stessi servizi segreti britannici. Quindi questo personaggio mitico, perché poi ci hanno fatto i film eccetera eccetera, in realtà si sentì tradito lui stesso, perché lui quando combatté per le popolazioni arabe non lo fece in regime di falsità, conobbe proprio gli arabi, cioè si innamorò anche della cultura araba, perché ricordiamo la cultura araba comunque è una cultura che ha un determinato fascino, è una scrittura molto fascinosa, cioè infatti avete visto anche nel filmato si parla di Damasco. In quel periodo lì in Italia, per esempio, Damasco, Baghdad erano città che, pensate, vennero pure messe nei programmi scolastici, addirittura nei programmi scolastici italiani, che erano molto autarchici, no? Si parlava dell'impero romano, eccetera, eccetera, però la il discorso arabo, nonostante l'Italia avesse comunque conquistato la Libia, che qualcuno adesso aveva scambiato, ho visto su qualche giornale dei confronti tra la guerra italo-turca e la guerra di oggi, è totalmente un'altra cosa, perché lì non c'erano guerre, cioè nell'Ottocento e nel Novecento noi avevamo superato le guerre tra virgolette religiose, quindi non andavamo a conquistare la Libia perché dovevamo portarci la cristianità o altre cose, anzi in casa nostra eravamo a litigare con il Papa, perché nel 25, nel 26, nel 27, nel 28 il Papa diceva: io sono prigioniero dello Stato italiano, però non aveva firmato i patti lateranensi, quindi eravamo in una situazione di totale anche noi scontro con le religioni, quindi la religione passò in secondo piano. Fu il fascismo che andò a giocare sul discorso proprio parola musulmana, perché gli arabi erano di religione musulmana ed erano sparpagliati per tutto il Nord Africa. Ricordiamo, c'era anche l'Algeria che era sotto la Francia, la Tunisia che era sotto la Francia. Per esempio, la Tunisia avrebbe voluto passare sotto l'Italia per una serie di motivi, perché la colonizzazione italiana era leggermente più morbida, nel senso meno sfruttava meno, diciamo, le risorse, mandavano, cioè noi eravamo tra virgolette avevamo una colonizzazione forse 6-700esca, mandavamo ancora i coloni, noi mandavamo i coloni a fare l'orticello, costruivamo anche, per esempio, per i musulmani, questo, se voi ci pensate, adesso questo è stato firmato, però è propaganda, quindi bisogna sempre guardarla con gli occhi comunque di oggi, però questo fece parecchia paura agli inglesi, perché questo villaggio non fu destinato agli italiani. Questo fu un villaggio destinato alla, siamo il 16 dell'11 del 38, alla popolazione araba. Chiama anche gli indigeni libici a cooperare alla grandiosa opera di colonia. A Derna proprio, in questi giorni. Che con il Nahrum costituisce il primo nucleo di villaggi agricoli destinati alla popolazione araba, che prima spaziava sul Jebel, dove sono sorti e si moltiplicano i villaggi dei nuovi coloni, e che ora testimonia la propria soddisfazione per la vantaggiosa sistemazione ai piedi della montagna, accogliendo con grande entusiasmo la visita del maresciallo Balbo, che accompagnato dal Khalif passa in rivista le famiglie arabe, con le bandiere e le caratteristiche tipiche, le zanie e organizzazioni della gioventù araba del territorio, le maestranze italiane e arabe, che in appena un mese di lavoro sotto l'ampia direzione dei tecnici hanno già innalzato i primi edifici del centro del villaggio. Il maresciallo ha illustrato ai rappresentanti della stampa che lo accompagnavano le condizioni idriche veramente felici della zona, a cui una sorgente freschissima fornisce l'acqua in ragione di 150 litri al secondo, acqua che opportunamente canalizzata consentirà l'irrigazione di un complesso di 150 ettari di terreno. Cioè, adesso posso, io penso che adesso possa magari far anche sorridere, anche perché tra la voce e quello che veniva fatto è palese che sia una propaganda poi da propinare agli italiani e dire: guardate, siamo bravi anche con chi non è italiano, bla bla bla. Però per il tempo e per le nazioni, cioè la Francia una roba del genere non l'aveva mai fatta, l'Inghilterra una roba del genere non l'aveva mai fatta. Quindi chiaramente, alla luce di queste cose, sorsero anche dei movimenti, le camicie verdi, le camicie azzurre in Egitto per esempio, dei movimenti che andavano un po' a imitare il fascismo. Addirittura Mussolini disse in un discorso che non è famosissimo, però in realtà dovrebbe diventarlo: il fascismo è l'Islam del XX secolo. Perché lui si rifaceva, e qui io invito caldamente, quando si parla di fascismo, a leggere non semplicemente la storiografia che parla delle carnevalate di Starace, che dice che tutti devono vestire l'orbace, cioè, ma libri di questo tipo, per esempio Il culto del vittorio, e qui si capiscono le differenze col regime nazista, che era di tutta, intanto il regime nazista era di origine pagana, il regime fascista aveva un'origine politica. E questa è la prima, quindi chi parla di nazifascismo deve sempre riferirsi al 43 al 45, parlare prima di nazifascismo e non aver capito nulla o quasi. Perché Islam? Perché l'Islam era diventata una religione collante per le popolazioni arabe, e Maometto aveva trovato questo veicolo comune Ci avevano provato anche i missionari nostri in Turchia, ai tempi delle, prima delle crociate, ci avevano provato anche loro con i berberi, ci avevano provato anche loro a dire guarda, guarda che qua abbiamo una religione monoteista, eccetera. Però la religione musulmana era un po' più adattabile a quelle popolazioni per svariati motivi. E quindi gli arabi divennero una superpotenza grazie a motivi anche religiosi. Anche dico, perché poi ci fu la cultura, ci fu la matematica, ci fu l'architettura, ci fu un sacco di cose che fecero da collante generale proprio per creare una cultura di un certo livello. Però partì tutto da questo, da questo. Il fascismo diceva in pratica la stessa cosa, cioè a parte la diarchia con il re, e quindi quella andava eliminata, prima o poi l'avrebbero eliminata, con il papa si pensò molte volte di eliminarlo, di farlo tornare in Francia, per esempio, specialmente prima del 29. E soprattutto si parla di liturgia fascista, cioè il fascismo doveva diventare lo Stato, doveva diventare la religione di ogni italiano, poi che tu fossi mistica, ma mistica, infatti c'era mistica fascista. E ci furono degli intellettuali raffinati come Bottai, ripeto, anche se era fascista il cervello ce l'aveva, funzionava. Uno dei primi che si rese conto che il fascismo stava andando in decadenza, perché non aveva più l'interlocutore con cui parlare, era diventato tutto in varie somiglianze di Mussolini, quindi destinato a decadenza, è ovvio, perché quando una cosa non è più viva, scrisse svariati articoli contro appunto questo sistema che andava innestandosi, e dopo nel 43 infatti non combatterà nella Repubblica di Salò, ma si arruolò nella regione straniera. Infatti fascisti col cervello, Dino Grandi scappò in Portogallo e vabbè, Ciano fu l'unico fesso, passatemi il termine, a scappare in Germania, dove venne preso, lui convinto di essere immune a chissà cosa, poi venne addirittura, poi quando venne preso Mussolini, gli dissero a Mussolini cosa vuoi fare con Galeazzo Ciano, Mussolini non aveva mica intenzione di ammazzarlo, e fu Hitler che disse ma guarda che forse è meglio che i tuoi uomini, fai capire che sei un po' cattivo, perché qui la situazione va, sinceramente da quel punto di vista capisco i tedeschi, nel senso che vedere chi al consiglio, al gran consiglio ha fatto un ordine del giorno contro il dittatore, lì che mangia insieme al dittatore e la figlia e i figli, fa strano. Pensate a Hitler, quello aveva già pensato camera gas eccetera eccetera, perché aveva un'idea leggermente differente, questi avevano un regime durato 20 anni, fatto cadere all'interno. Non esiste nella storia umana che un dittatore si sia fatto buttare fuori dai suoi stessi scagnozzi, cioè è successo solo in Italia. Hanno fatto un ordine del giorno contro il dittatore, cioè in un regime pseudo-democratico all'interno di un regime, un gran consiglio del fascismo. Cioè è una cosa, è per quello che tante volte mi è capitato di parlare di fascismo, in questo caso io l'ho fatto adesso, io non ho tutta la sera, infatti è un peccato perché c'è un sacco di cose da dire, però ho fatto questo ragionamento di Islam e fascismo non per accostare le due ideologie, perché chiaramente non sono due cose diverse, ma è per far capire quanto sia delle volte difficile e complesso capire il comportamento di intere masse. Cioè gli esempi che anche ho portato degli italiani, in questo caso non ho voluto parlare di Islam e di, perché non penso di essere così preparato per fare una conferenza sull'Islam, che è un tema complesso e potrei anche dire delle cavolate. Ho semplicemente ho fatto un parallelo con la mia nazione, che è l'Italia, e con gli errori che ha fatto, gli errori, non errori, politiche lungimiranti, per fare un parallelismo, per far capire appunto che anche noi abbiamo avuto un periodo in cui abbiamo ragionato in un certo modo, cioè non è che non abbiamo mai ragionato, cioè, se quando sento dire, e paradossalmente gente che si proclama fascista tutt'oggi e non sa che il suo mondo è molto più vicino a quello che denigra di quanto possa sembrare, perché appunto questi, ci sono dei testi, delle scritture di Mussolini. Io apposta, a parte questi libri dove anche qua si parla del rapporto con gli arabi eccetera in un capitolo, io apposta ho fatto una ricerca nella rete, anche su Wikipedia, che su certe cose scrive cavolate, su altre scrive cose giuste, appunto per trovare spunti. E che cosa potrebbe trovare anche un ragazzo che magari si trova davanti, o una persona insomma che si trova davanti a una ricerca di questo tipo, e che magari studia il fascismo e basta, come corpo a sé stante, o studia il nazismo come corpo a sé stante. Invece il nazismo bisogna studiarlo e partire dalla cultura pagana che c'era in Germania in quel periodo. Cioè, si erano convinti di essere dei reincarnati, Hitler in testa. E perché questo odio verso la religione ebraica? Parte per i soldi, ma proprio un odio che veniva dall'alto, che veniva ancora da un divino, eccetera, eccetera. In Italia, invece, il discorso era politico, cioè Mussolini con la politica che conquista il potere, non è con l'esoterismo. Infatti ci sono dei libri, il nazismo esoterico, che adesso è stato un po' rivalutato questo filone, che ti spiega effettivamente perché fece breccia nei tedeschi di quel tempo. Non erano, penso, tutti stupidi da non capire. Perché? Perché venivano da accordi bislacchi del... che vi ho raccontato prima, quello schifo che fu la conferenza di pace di Parigi, accordi bislacchi, che portarono poi nel 1933 a Hitler e a tutto il discorso. E in Italia la vittoria mutilata dei nostri... Cioè, io mi metto nei panni di un ragazzo del 99 che nel 1920, a 21 anni, dopo una guerra vinta, le trincee, il disastro, si ritrova con il discorso della conferenza di Parigi. Al primo fascio di combattimento, che a quel tempo ancora non si sapeva bene, perché ricordo che ci degli intellettuali come Nenni, che Nenni fondò il fascio di Bologna, cioè non fu uno che passava per caso, cioè fondò il fascio di Bologna. Infatti lui non disse mai nulla dopo la guerra su Mussolini, né bene né male, perché Mussolini di fatto gli salvò la vita, quindi non poteva denigrare chi aveva salvato la vita. Quindi anche lì ci fu una sorta di mistificazione di tutti quei vent'anni, e si fece come finta che in quei vent'anni ci venne, non so, fumo tutti impazziti, eccetera. In realtà invece le radici sono proprio da trovare in questi atteggiamenti. Adesso molti non sanno nemmeno dell'avvicinamento arabo e fascismo, cioè sfido tanti padri, ma come, ma va là, sono due cose completamente diverse. Invece furono trovati dei punti in comune, e quindi questo, per capire noi stessi potremmo anche studiare gli altri. Questo era il messaggio. Quindi l'Ovest Arabia, gli inglesi, quindi io non ce l'ho con gli inglesi chiaramente adesso, però chi dice io sono difensore della democrazia, in realtà nel frattempo stava facendo tutt'altro in Medio Oriente, stava pensando al petrolio già negli anni 30, stava dividendo queste popolazioni. Avete visto in Palestina, c'erano i battaglioni inglesi che sparavano lì, iniziarono a portarci un po' di ebrei in più, anche quello fu fatto per creare tensione, perché gli inglesi preferivano che ci fosse guerra tra palestinesi e ebrei, così loro potevano controllarsi i pozzi di petrolio, e chiusa lì. È lì che nacque, e nel 1946 poi fu fatto il patatrac, cioè fu promessa una cosa, anche lì gli arabi furono presi in giro, perché durante la guerra ci fu, per esempio, questo fatto poco ricordato, secondo me non lo sanno, forse non lo sanno nemmeno in Medio Oriente, perché l'ha proprio cancellato, però quando Rommel stava per conquistare l'Egitto, e von Paulus stava per conquistare la Russia, eravamo a tanto così da una tenaglia enorme, furono proprio gli arabi che insorsero in alcune zone di confine vicino ai... insorsero ovviamente sotto foraggiamento delle potenze alleate, ma perché avevano promesso che finalmente dopo la seconda guerra mondiale queste persone avessero una loro patria dopo svariati secoli, e venne promessa per un po' la Palestina che era il tarlo. Si chiamò amministrazione fiduciaria, avrebbe dovuto essere un territorio diviso in più parti, in più stati, però anche con uno stato palestinese. Questa cosa non si fece, e da lì il germe diventò la guerra totale che ci siamo riportati fino a questi giorni. Adesso poi ci sono altri discorsi, ci sono califfati, eccetera, anche qui, appunto ad Erna, eccetera, eccetera. Però sono discorsi molto complessi che non possono essere presi, secondo me, così e buttati in televisione, oppure spiegato, no, ma perché solamente... È per questo che ho cercato di fare un discorso che so che è complesso, perché non è facile. Di solito faccio anche più battute, ma qui tante battute non ce ne andranno a fare. E appunto per far capire tutto il discorso del Medio Oriente, che alla fine purtroppo per fortuna parte sempre dalla parte occidentale. Cioè, noi eravamo la potenza dei poveri, la grande proletaria, eccetera, eccetera, che si mise di traverso per esigenze sue, non perché era, alla fine non eravamo dei filantropi, proprio per esigenze nostre, ci mettevo di traverso a quello che è l'imperialismo inglese, che è iniziato nel 1500 e in realtà non è finito, perché comunque Inghilterra e Stati Uniti sono la faccia, è la stessa medaglia con due facce, non è diversa. E quindi di traverso c'è un bellissimo libro che si intitola Quando gli iracheni non sparavano agli italiani, appunto perché una nostra delegazione di militari anche andò in Iraq negli anni 20 per vedere di poter fare dei confini di un certo tipo. Noi andavamo per motivi politici, gli altri invece andavano per motivi di petrolio. Infatti poi l'Iraq, se voi lo prendete nella cartina geografica, è disegnato proprio, è tutta una riga dritta, è lì. Però sappiate che ci sono popolazioni, i curdi, che sono stati divisi in tre pezzi, e cose dell'altro mondo, appunto, fatte negli anni 20, cose che ci siamo portati dietro e ci stiamo ancora portando dietro. Poi adesso lasciate chiaramente l'ISIS, eccetera, sono discorsi ancora che sono venuti dopo, però tutto parte dalla zona medio orientale, che fino al 1900 non aveva queste grandi problematiche, perché comunque le popolazioni sotto l'impero ottomano, anche se era ormai era in decadenza, però cercavano di tenere una certa unità, anche perché, ripeto, avere le rivolte in casa è sempre complicato. Bene, io avrei anche concluso, non volevo dilungarmi oltre le 7. Se avete delle domande, se avete delle osservazioni, vi è lieto di rispondere. Vi ringrazio per la pazienza e la partecipazione. Io vi volevo lasciare con una cosa che fa un po' ridere, però per farvi capire come sono fatti anche gli italiani, quindi non sono facilissimi da governare, e dura 3 minuti. Vi faccio vedere questo video perché è emblematico sulla nostra Peppone comunista, quindi che divertente. Prima di presentarvi il compagno indipendente avvocato Cerratini, alla reazione clericale, atlantica, guerra fondaia, che tutti noi conosciamo. Questi consiglieri che parlano di patria, signore, carne, i sacri confini minacciati e di altre palle nazionaliste. Noi diciamo che la patria siamo noi. facile avere a che fare con una preparazione. Vi lascio con un aneddoto. Nel 1936, dopo il discorso, questo è un fatto che è stato documentato da donna Rachele, a Mussolini venne proprio la moglie e disse: ma adesso che hai fatto l'impero ti conviene andare a casa, perché fatto questo non ci sarà nient'altro, cioè lei ci arrivò prima di lui, non ci sarà nient'altro che potrei fare con gli italiani più di tanto, perché ci sarà, cadrà in errore prima o poi. E invece purtroppo dal 36 in poi appunto ci saranno una serie di errori clamorosi da parte di Mussolini, non ultimo il discorso con la Germania purtroppo, che ci invischiò in quella, nella seconda guerra mondiale, una tragedia per noi, per il popolo tedesco anche comunque. E lui lì fece un errore, ed è qui che dico sempre di andare a leggere i biografi italiani, perché noi italiani su certe cose, i nostri biografi, quindi Renzo De Felice, Petacco e storici italiani, sanno come sono fatti gli italiani, sanno che cosa successe a Mussolini, cioè che da alto così fu convinto sempre di aver ragione, quella non è una battuta. Da lì in poi non ebbe più nemmeno un amico con cui parlare, nel senso che lui, la persona che aveva davanti, non accettò più consigli. Fino al 36 invece il regime, il consenso, purtroppo per fortuna, c'era in Italia, perché comunque la stragrande maggioranza degli italiani le opere del regime le apprezzò, perché lui seppe ascoltare sia la pancia degli italiani, ma anche i vari consiglieri, stretti collaboratori, anche qualche suo amante, per esempio la Sarfatti, che frequentò per parecchio tempo. E non era come la Petacci, la Sarfatti era un intellettuale, lui ebbe delle amanti anche in comune con Lenin, la Balaban, che fu anche amante di Lenin, lui parlò con Lenin in Svizzera, quindi conosceva perfettamente come ci si comportava in Russia. Cioè ci furono questi parallelismi che sul nostro popolo è perfetto, cioè per quello il fascino magnetico non sono battute, cioè chi lo ha sentito parlare dal vivo certe cose gli ha detto. E la nostra popolazione ha pregi e difetti, ha il difetto di esaltarsi quando non serve, magari il difetto di deprimersi, cioè il pregio di esaltarsi nelle situazioni di emergenza, e il pregio il difetto di deprimersi invece quando ci sono situazioni magari dove bisognerebbe tirare fuori i famosi attributi. E sempre così, non lo disse Mussolini, lo disse Giovanni Pascoli, che non era fascista, lo disse Carducci, lo dissero altri, Vittorini, eccetera eccetera. Quindi secondo me è questo il messaggio, cioè nel senso dobbiamo cercare di trovare una mediazione che in questi anni di Repubblica anche non abbiamo in realtà trovato, perché abbiamo deciso di fare tabula rasa col passato invece di andare a capire i nostri errori, di andare a capire perché certe scelte sono state fatte. Non è cambiando il nome alle cose ci siamo convinti di aver sconfitto il fascismo perché non si poteva più dire patria in Italia. Dici patria sei fascista, cioè è una grande sciocchezza questa che è stata fatta nel periodo repubblicano. Adesso negli ultimi anni, no, Ciampi ha ritirato fuori un po' il valore nazionale eccetera eccetera in una maniera positiva, non è che si uno dice io mi sento italiano è fascista. Cioè siamo entrati in quest'ottica col nostro passato, che secondo me invece non è che va rivalutato, va capito e compreso. Stessa cosa che hanno fatto in Germania. In Germania hanno condannato, ma hanno cercato di capire perché sono arrivati a quel punto. Non hanno detto è andata così, però adesso noi condanniamo tutto. Infatti formazioni neonaziste in Germania si contano sulla dita delle mani. In Italia invece fondamentalmente chi c'era prima nel 48 Posticino l'ha mantenuto, proprio i casi clamorosi, furono uccisi le persone tipo Mussolini eccetera, però tanti altri non furono assolutamente uccisi, e addirittura nei posti comunque di comando furono mantenuti tutti, quindi uno Stato che di colpo diventò non fascista. E questi errori, queste cose poi più avanti hanno portato a formazioni di gruppi di un certo tipo, tuttora eccetera eccetera. Quindi secondo me va tutto capito senza ogni volta accusare eccetera eccetera. Per questo che ho fatto una conferenza di questo tipo, ho messo anche in mezzo il discorso Islam, perché adesso il capo espiatorio più che il fascismo è delle volte l'Islam, però spesso e volentieri tanta gente non conosce effettivamente il perché, il per come, e perché uno si metta su una barca e attraversa il Mediterraneo magari non sfugge che cosa ci sia dall'altra parte. Dall'altra parte c'è un disastro, e purtroppo noi non siamo stati proprio degli spettatori inermi, anche noi stessi. Quindi magari nella comprensione, nella cooperazione internazionale, magari si riuscirà domani a trovare una soluzione. Non dico quale io, perché non sono all'altezza, penso, di dare soluzioni per Libia, eccetera eccetera. Non saprei esattamente adesso come adesso neanche proporla una soluzione, però qualcosa magari di, io penso che a livello di cooperazione e lavorare anche con le persone che sono già qui, che potranno forse dare una mano, così gli italiani di domani ci daranno qualcosa in più da quel punto di vista. Secondo me dobbiamo ragionare su quello, farli sentire parte comune con la nostra società. Cioè, lo fece il fascismo, voglio dire, un regime, non riusciamo a farlo noi della Repubblica? Questo è l'interrogativo di fine conferenza. Grazie. Grazie.